turista che arrivi, ti bevi le foglie ed escavi, poi dentro d'un tratto ti trovi fontana del Trevi che è tutta per te. Poi tutto d'un tratto ti trovi fontana del Trevi che è tutta per te.